analizzare appunto la materia con l'antimateria, cioè parliamo di antimateria, visto che l'antimateria secondo me è più intelligente della materia, no? Bisognerebbe votare l'antimateria. La zanzara. A nascere a fanculo tutti quanti, medici e politici intriganti, e l'avvocati che corso riso in mano e infilano un bel cetriolo arderetano. A nascere a fanculo tutti quanti, che qui stanno il nuovo guru, il nuovo guru di Beppe Grillo. Ha un nome e un cognome, fa il professore universitario all'Università di Genova, filosofia del diritto, come tu sai bene, caro Parenzo, come tu sai bene, è un professore universitario. Io lo adoro per certi aspetti, questo professore, perché ha quella faccia paterna con quella barba bianca, dice le cose in maniera molto schietta. Certo, non sono d'accordo praticamente su nulla. Meno male. Su nulla. Però mi batterò fino alla morte perché possa dire queste cose, ripetendo un vecchio adagio, no? Sì, sì. Molto, molto volteriano, sei molto illuminista, sei tu, bravo. Si chiama, bravo. Questo professore si chiama Paolo Becchi. Professor Paolo Becchi. Paolo Becchi. Vuoi farmi sentire le stupidaggini di ieri? Ma no, ma lascia perdere, sono stupidaggini, facciamole giudicare agli altri le stupidaggini, no, poi diciamo anche la nostra, come al solito, non è che ci nascondiamo, Il professor Paolo Becchi dice, il professor Becchi, che se avesse di fronte l'effigie, anzi no, monti di persona, beh, cosa farebbe? Lei sputerebbe in faccia a Monti? Se lo avessi di fronte, sì, a costo di andare in galera. Perché quella è veramente una... Lui, ma ancora di più Prodi, perché ce lo chiede l'Europa. Io quando vedo quella faccia lì, mi sono fatto, sai questi giochi che ci sono da tirare le freccette, no? Con lui, con quella faccia, ce lo chiede l'Europa. E che si è fatto? Ogni tanto tira le freccette contro, esatto, contro non Prodi. Non lo posso soffrire. Belli, forti, ricchi, gli arroganti. Poi dice che la rivoluzione, perché lui vuole la rivoluzione, si fa anche con le armi. Con le armi? Professore, Però la rivoluzione si fa con le armi, professor Becchi, con quello che c'è, se sono necessarie anche quelle, Però c'è anche la possibilità del voto. Quando stanno santi, dove madavaga? Bel casino anche tra gli adepti del movimento barra setta di Beppe Grillo, Finalmente lo riconosci. No, ma io ho setta, sempre bravo. Detto che è una setta. Ho anche detto che per guidare quel movimento ci vuole uno col pugno di ferro. Ron Hubbard, lo dici te, ci vuole uno con il pugno di ferro. Che decide? Vuoi stare, dice, mica, vuoi stare mica con me? È... Le regole sono queste. Altrimenti, arrivederci, ma, grazie. Fermo, sì, zitto. Ho detto che è uno stronzo, ho detto che è Ron Hubbard. Stai zitto. Beh, Ron Hubbard non è una setta nascosta come Scientology, Un attimo solo. Ma mica è nascosta Scientology. Un attimo, aspetta un attimo, sentiamo questi militanti del Movimento 5 Stelle come si rivolgono nei confronti della dissidente Salsi, anche se poi non è chiaro se sono effettivamente militanti del 5 Stelle, comunque così viene riportato da tutti i giornali online, poi bisogna sempre vedere e controllare. Mi hanno detto che non si doveva fare gossip, cioè il mestiere di... Bottana, non è mica andare in televisione, fa qualcosa. Beh, dai, lo gliel'hanno detto, cazzo. Sì, gliel'ha detto uno. No. Ovviamente era inascoltabile, ma significa puttana era, puttana rimane. E l'avvocati che corso riso in mano. Signor Favia, ha uno dei primi dissidenti, ve lo ricordate, consigliere regionale in Emilia Romagna, Non sono del fan club di Grillo. Beh, questa però è troppo, Questo è come non sei del fan club di Grillo. E che cosa sei allora? Non ho del fan club. Pensi di poter contestare il tuo capo? Quello che ti ha messo lì e senza il quale non esisteresti? Ma io ho un rapporto di stima verso Grillo e anche d'affetto nonostante gli ultimi problemi. Non mi sento parte però di un fan club. Se c'è da non essere d'accordo, dico non sono d'accordo. E quelli che ci piano per fessi ma noi non se sentiamo ancora lessi. Va bene, la russa ha scatenato a Repubblica TV, ci impediscono di fare le primarie con la divisione delle elezioni tra alcune regioni e poi le politiche, ci impediscono di fare le primarie, però la russa perché utilizzare questi argomenti? Le regioni quando si sciolgono si va a votare anche subito. Il centrodestra d'altra parte è sempre stato il paladino giustamente delle elezioni subito, non si capisce perché non si possano fare le elezioni prima in Lombardia, in Lazio e Molise e poi le politiche, si risparmiano dei soldi, ma chi se ne frega, la democrazia ha un costo, votare non è mai un costo quando uno va a votare. Andiamo, la russa. Si tenga presente che avevamo anche deciso una operazione di grande democrazia e di partecipazione popolare. Per la prima volta il centrodestra aveva deciso di fare le primarie per scendere nelle piazze e far scegliere ai cittadini il candidato del centrodestra, il candidato almeno del Popolo delle Libertà. E andare a fissare il 10 febbraio le elezioni nel Lazio e in Lombardia significa impedirci di fatto di compiere questa operazione di trasparenza e di partecipazione popolare. E qui stiamo a soffrire, siamo in tanti. Eh sì, perché ci danno quello che c'è. Va bene, c'è tanta altra roba, ma abbiamo molto tempo, Parenzo. Molto tempo. 800 24 00 24, sempre di La Russa. Poi c'è anche uno straordinario Aldo Busi ieri sera 8:30. E Barbato che dice che bisogna mettere Maruccio e Maruccio a pane e acqua. Maruccio dell'Italia dei Valori a pane e acqua. Non si fa mai mancare nulla, il signor Barbato. Ieri notte, a proposito di Barbato, stavo tornando a casa, ero in zona piazzale Clodo. Tu dici chi se ne frega? È vero, era luna di notte, è vero. Hai visto Barbato? Che hai fatto? Con Peter Gomez ed altri. Ma chi se ne frega con chi eri? No, ma a un certo punto si avvicina un giovanotto. Perché non ti si sente bene? Che cosa fai? Urli al telefono, cosa fai? Ho messo per dispetto l'auricolare. Mamma mia, guarda. Giuliano Amato dice 2 anni di vitalizio anticipato agli esodati della politica. Poi spiegheremo tutto. E con noi Daniela Santanchè, buonasera. Buonasera a voi e a tutti. Come andiamo? Ma sempre molto bene. Senta, ma chi sono quelli del centrodestra che vogliono Sallusti in galera? I leghisti sono scatenati da questo punto di vista. Ma mi sembra che c'era un'intervista di Maroni che era invece in direzione completamente opposta. Ho capito, però dicesse ai suoi di votare in un certo modo allora. Ma io dico che è talmente imbarazzante quello che sta succedendo perché non si mettono in galera i ladri, i delinquenti, quelli che ammazzano, e si mette in galera un giornalista. Però se sono tutti contenti che Sallusti vada in galera, ma lei è preoccupata? Vuol dire che c'è ancora più una spaccatura con la gente comune, con i cittadini che vorrebbero vederli in galera tanti, ma io non credo che vogliono in galera i giornalisti per un'opinione. Senta, ma lei è preoccupata? Beh, certamente non posso essere contenta, credo che sia da un punto di vista umano un dramma. Oppure pensa che alla fine innocente in galera non credo che neanche lei sarebbe contenta. No, vabbè, io parlo naturalmente soprattutto, caro Parenzo, per il rapporto che tutti sanno esiste tra lei e Sallusti, però al di là di questo io voglio... è una tragedia umana. Io voglio capire una cosa, ma lei pensa... Ma come farà, cosa farà nel caso dovesse accadere, cioè, avere un amore così grande che dietro le sbarre è una roba... struggente, quasi Parenzo, poetica. Prenda per il culo qualcun altro quando si parla questa volta è serio, perché questo dire, potrebbe serio. Capitare anche a lei con tutte le discussioni che abbiamo avuto simpatiche, ma è anche serio questo e tutto invece, ma su questa cosa qua non intendo scherzare perché la galera non può essere per un innocente. Ma non scherzo per nulla e dico che lei fa benissimo a fare questa battaglia ricordando il valore della libertà dei giornalisti. Non ha fatto la stessa cosa quando chiesero l'arresto per Milanese, ad esempio, che invece non andrà in galera perché è stato salvato da un voto parlamentare. Quindi io le riconosco una grande battaglia di civiltà, è completamente diverso quello che dico. No, guardi, non mi può fare questa accusa perché io ero sottosegretario al governo, ma non essere deputato, non ho votato né per il sì né per il no. I politici che rubano devono andare in galera, forse anche più di quelli comuni, perché fanno delle cose alla comunità che sono gravissime. Senta, ma è vero che ci sono non difenderò mai un delinquente. È vero che ci sono delle persone che hanno avvicinato Sallusti per farlo fuggire in Francia? Beh, ma sicuramente in questo periodo ne abbiamo visto di cotte e di crude, fa tutto molto schifo. Ma è vero o no? Ma è vero o no? Io non sono stata... Beh, no, lei adesso... a fare l'esule in Francia. Sì, comunque posso confermare che gli è stato offerto. Ma da chi? Da gente del PDL? No, no, no, beh, questo da chi? Lei che è un giornalista si può dare la notizia, però, ma non la fonte. Se fare lei sulle, lei cosa gli ha consigliato? Ho capito, ma chi è fare... che l'ha consigliato? Un politico? No, io, guardi, non è che devo consigliare niente, perché Sallusso è una persona talmente determinata in questa sì. questione, giustamente, che forse pochi uomini avrebbero fatto questa scelta così sì. dura, perché andare in carcere credo che... non fa piacere sicuramente sì. a nessuno, che io rispetto la sua scelta e che caratterialmente e la condivido. Ok, però lei gli consiglierebbe di scappare? Mai nella vita. Mai nella vita. Ah, ecco. E chi lo ha fatto? Perché lo ha fatto? Perché gli ha consigliato di... Perché nella vita c'è un sacco di gente che sono codardi, che sono palle di velluto e che non sono abituati a fare delle battaglie. Ma sono persone delle quali io non mi interesso. Ma è nella, come dire, comunque nel centrodestra o... Ma no, ma non c'entra niente. Non me lo vuole dire. Ma ci manca, ma parliamo tra persone serie, Cruciani. No, lo so, ho capito, ma io ci provo. E lei magari mi dice qualcuno... Lei ci prova e io qua, guardi, sono assolutamente... Anche perché lei sa, Cruciani, che di me tutti i giornalisti ne hanno scritte di ogni. Io non ho mai querelato nella mia vita un giornalista. Sì. E forse qualche volta ne avrei avuto questo un è vero, motivo. Questo è vero. Quindi non l'ho però mai fatto. Non usufruirà. Il direttore non usufruirà della cosiddetta dottrina Mitterrand. C'è gente, questa non è male però come battuta, questa si può fare come battuta, onorevole Santacchè, noi non scherziamo su queste cose, perché io sono sicuro che non andrà mai in carcere. Però invece sono sicura che la prossima settimana varcherà il carcere. Perché lo vuole anche lui, perché lo vuole anche lui però. No, non assolutamente perché lo vuole lui, perché questa è la legge, bisogna trattarlo come un cittadino comune, se la magistratura lo ritiene colpevole, lo ritiene socialmente pericoloso, deve metterlo in carcere, perché non si devono fare trattamenti di favore a nessuno e deve diventare un problema per loro. Ok, allora c'è anche una volontà di creare un problema da questo punto di vista, di creare un caso, ma è legittimo, però cioè andare mi sembra che io poi non sono Sallusti, ma mi sembra che il direttore Sallusti si è espresso in una maniera molto chiara. Senta, onorevole Santacchè, lei ha detto qualche giorno fa che l'incertezza di Berlusconi ci sta devastando e io sono d'accordo, questa incertezza ancora esiste. Ma mi però. Sembra che invece sia stata risolta quell'incertezza, cioè? Perché mi sembra che adesso il presidente Berlusconi sia molto determinato in questa battaglia, che è una battaglia importante, perché quello che avrebbe deciso, no, il governo di fare votare il 10 di febbraio Lazio, la Lombardia e il Molise, cioè e ha deciso di fare cadere Monti, dice, se non si accorpano tutte le elezioni? Scusi? Cioè ha deciso di fare cadere Monti? No, ma lei si riferiva all'incertezza su scendere in campo, fare la lista? No, l'incertezza politica di avere una linea. Adesso sono molto contenta perché la linea ce l'abbiamo molto chiara e l'ha detta molto bene il presidente Berlusconi. È quella che o si vota tutto insieme, anche perché non vogliamo far buttare via 100 milioni. Ma no, ricordo, ma scusi. Ricordo che in queste ore gli alluvionati della Maremma, nella legge di stabilità, già discutendo proprio questo, non c'è la copertura del fondo. Beh, non è questo. 100 milioni, per chi ci ascolta, le ricordo che ci vogliono 25 vite per guadagnarli e forse non basterebbero nemmeno, per cui siamo seri. Ma una non è per quello. Siamo seri, dignità. No, dignità. Una differenza di 6 settimane dignità. Non valgono 100 milioni. Il governo Monti sta chiedendo lacrime e sangue alle famiglie e alle aziende e non chieda di buttare nel cesso 100 milioni dei soldi. Però voi volete l'accorpamento perché pensate che perdendo, come probabile, le elezioni alla fine di gennaio o all'inizio di febbraio, quello che è, non mi ricordo, sì, all'inizio di febbraio, poi alla fine perdete anche le altre, c'è un effetto valanga. Questo no, è il punto. Guardi, noi a parte che non pensiamo di perdere le elezioni. Vabbè, quello è chiaro. Perché la gioiosa macchina da guerra abbiamo già visto una volta che fine ha fatto e quindi siamo abituati e non abbiamo paura di questo. Noi abbiamo rispetto dei soldi dei cittadini, dei cittadini, perché è un momento drammatico per le imprese e per le famiglie, e quindi diciamo, siccome non c'è 3 mesi, 4 mesi, parliamo di 5-6 settimane, vabbè, non valgono 100 milioni. Senta, ma Marina Berlusconi secondo lei è adatta a fare politica? Ma guardi, Marina Berlusconi, come lei sa bene, tutti gli anni su tutti i giornali più importanti del mondo è sempre nelle classifiche tra le donne capaci. Quindi sarebbe assolutamente, dal mio punto di vista, capacissima a fare anche politica e porterebbe forse anche un'innovazione. Dunque, che potrebbe assolutamente bisogno. Potrebbe essere lei il dinosauro di cui si parla, il famoso dinosauro. Tenderei ad escludere, perché non è un dinosauro. Lei sia il dinosauro. Mazzauro, perché non credo che ci sia questo interesse né da parte del Presidente, ma soprattutto da parte di Marina Berlusconi. Però sarebbe adattissima a fare la politica. È molto suggestiva. Però a lei non dispiacerebbe, diciamo la verità. No, io non, a me non dispiacerebbe e sarei assolutamente contenta se questa ipotesi, che mi sembra molto giornalistica e poco credibile, senta, fosse vera. Sabato una donna capace, per me capisce che ho fatto bingo. Sabato il PDL, è strano perché lei poi si candida in realtà a guidare il paese, perché chi si candida alle primarie si candida a guidare il paese. Va bene, e infatti mi candido per il coraggio di chi ci crede, non ho paura a farmi Ma di fronte a una candidatura una linea politica molto chiara. Ma fa benissimo lei, ma scusi un attimo, se di fronte a Marina Berlusconi lei farebbe un passo indietro? Perché devo fare un passo indietro? Ci fosse questa ipotesi, il nome di Marina Berlusconi, dice vabbè, di fronte a una Berlusconi... o no? Ma di questo non sono pronta a dare una risposta, siccome non so se c'è questa ipotesi, nel momento in cui ci fosse questa ipotesi ci penserei. Dunque potrebbe anche fare un passo indietro. Ma già detto, io sono abituata a che le mie idee prendono corpo nel momento in cui ci sono i fatti. Senza, sabato il PDL riparte da Gaspare La Russa in piazza, ci sarà anche lei? No. Ma che cos'è questo? No. È un no molto secco, però. Ma perché sono una che ha delle idee decise. No, nel senso che è una roba vecchia, Gaspare La Russa in piazza con Alfano, però. Ma no, voglio dire, lo fanno con Alfano, loro stanno con Alfano, posizione legittima. È roba vecchia, se lo dica, è roba vecchia. No, che rispetto, però non ci sono io. Siamo in campagna per le primarie, La Russa e Gaspare fanno una cosa per Alfano, meglio posizione legittima. Ma io... andrò dove fanno le manifestazioni. Senta, ma ha visto quest'ultima disavventura di Grillo, la figlia beccata con un po' di cocaina, per carità? Questa è una disgrazia, quindi dice, io ho anche un figlio, quindi che prendessero mio figlio sarebbe per me un tale dolore, un tale fallimento. Però ha semplicemente consumo personale, ma guardi, per me il consumo personale sarebbe una tragedia enorme nei confronti di mio figlio, perché vorrebbe dire che quello che sono io come esempio, la mia educazione non ha funzionato. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta, gratta. Allora, dice Giuliano Amato in un'intervista al Corriere della Sera, 7 del Corriere. La proposta di Amato è questa. Reggiti forte, Parenzo, perché tu hai cercato di inseguirlo una volta, Giuliano Amato, per chiedergli della pensione. Te lo ricordi? Delle pensioni che cumula. Per carità, sono tutte cose legali, le prende tutto legalmente. Legittimo, non è che ruba i soldi, però sul cumulo delle pensioni si potrebbe anche discutere. Dice Amato, una cosa incredibile, dice, che bisognerebbe dare 2 anni di vitalizio anticipato. Di vitalizio anticipato ai cosiddetti esodati della politica, cioè un trentenne eletto in Parlamento dopo 2 mandati, cioè a 40 anni, che cosa dovrebbe fare mentre aspetta di compiere i 65? Ma tu ti rendi conto o no? Uno direbbe solo fattacci suoi, di che cosa fa? Cose pazzesche. Quando gli chiedi conto al signor Amato, gli ho detto l'altra volta, qualche mese fa, gli ho detto possiamo fare una battuta? No, non faccio battute. No, ma dico Amato, scusi Giuliano, una battuta sul fatto che lei cumula pensioni. Le ho detto che non faccio battute. 2 anni di vitalizio anticipato mentre cerca lavoro, ironico, dai, è ironico il dottor Sottile. Secondo me no, tra l'altro secondo me, siccome c'è tutta una strategia per portarla al Quirinale, potrebbe anche cercare dei favori in qualche deputato, da questo punto di vista. Cattazio benevolente. Però vabbè, non voglio pensare male. Parenzo che insegue Amato. Professore, possiamo farle un paio di battute? No. Questione delle pensioni? No. Professore? Non faccio battute di nessun genere. Sulle pensioni, no, sulla riforma? Nulla. No? No. Ci avete politici in servizio. No, perché volevamo capire per il futuro proprio del paese sulla questione delle pensioni. No, non faccio. Recentemente ha specificato, non sono 32.000 euro di pensione, ma 22.000 netti, 22.000 lordi, di cui 11.500 netti. Però non si capisce se è inclusa anche la pensione da deputato, quello che dice di devolvere in beneficenza, ma in realtà potrebbe decidere domani di intascarsela, cioè di prendersela legittimamente. Il vitalizio di ex parlamentare, al quale peraltro ho diritto, dopo 5 legislature e i contributi che ho versato, è fra gli emolumenti che da tempo destino ad attività benefiche. Non cumulo. Come non cumulo? Attività benefiche, uno può decidere domani mattina di non devolverle più, no? Cioè, non è che. Va benissimo, è un atto volontario di cui non ce ne frega assolutamente nulla, cioè se lui non li vuole intascare per devolvere attività benefiche va benissimo, dopodiché poi resta il fatto che oltre questi 11.500 c'è anche una pensione da deputato che lui dice di dare in beneficenza. Vabbè. Comunque, la proposta incredibile di dare 2 anni di vitalizio anticipato agli esodati della politica, cioè a quelli che rimangono senza lavoro dopo 2 mandati, chi se ne frega se rimangono dopo 2 mandati senza lavoro? Peggio per loro che non ce l'hanno il lavoro. Titoli del TG3. Mi fanno incazzare queste cose, guarda, titoli del TG3. Secondo me Giuliano Amato è stato ingaggiato dal Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo per dire queste cose. Probabile, probabile, probabile. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3. Di Bersani. A Gaza raid israeliane, 15 morti, razzi su Israele, 3 vittime colpite a Tel Aviv. Netanyahu annuncia l'operazione pilastro di difesa, Hamas guerra aperta. E ancora scontro tra Alfano e Bersani sulla data del voto per le regionali. Casini, facciamo subito la riforma ed anticipiamo le politiche. Napolitano, oggi non parlo di voto anticipato, ma il mio ruolo non è solo formale, guai a giocare col debito, ma sui tagli bisogna saper scegliere. Ancora in calo il PIL dell'Italia, in recessione l'intera eurozona, Draghi basta tasse, risanare i conti tagliando la spesa. Per il ministro Cancellieri, ieri l'Italia bolliva, le forze dell'ordine si sono comportate bene, ma molte foto mettono in evidenza eccessi. Nelle zone colpite dall'alluvione il caldo secca il fango che si trasforma in cemento, in uno stabilimento di Orbetello l'inondazione in diretta TV. Oltre 4 miliardi e mezzo di dollari, tanto pagherà la BP per la marea nera nel Golfo del Messico e la multa più alta della storia americana. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Eccoci, 800-24-0024, è sempre con noi Daniela Santanchè, candidata alle primarie nel centrodestra. Chissà se saranno poi importanti o se si faranno queste primarie del centrodestra. Bah, ma quanto spenderà per fare le primarie? Ma guardi, noi non possiamo spendere i soldi perché c'è un tetto. Quale e poi tetto? Bisogna trovare chi finanzia queste primarie. Lei ha già trovato deve essere messo tutto su internet, devono esserci costi, le entrate, finalmente una cosa trasparente. Ma se lei andasse alle volte sentendo prima le parole, vede che c'ho ragione io, che nel mio primo punto del mio programma delle primarie c'è scritto basta con i politici di professione, perché bisogna sapere entrare e uscire dalla politica e quindi avere un lavoro, perché noi oggi i giovani diciamo, il posto fisso non c'è più, si figuri se io voglio il posto a vita per i politici. Quindi basta quindi con nessuno Berlusconi. In Parlamento, ma che c'entra Berlusconi? Senza reddito. Politico di professione ormai. Ma che c'entra Berlusconi che c'è un reddito? Parenzo, ma perché? Se avesse fatto lei, ma perché è così stupido ogni tanto? Un centesimo di quello che ha fatto Berlusconi, chapeau. Allora, ma la Russa dice che Berlusconi in realtà non è indispensabile. Beh, insomma, non credo che la Russa dica una cosa del genere. Come no? Ha detto che non nessuno è indispensabile, compreso Berlusconi. Così ha detto. Noi invece sono tutti non indispensabili, ma credo che proprio dispensabile per il centrodestra sia Silvio Berlusconi. Cioè è lui che non è indispensabile, la Russa che non è indispensabile. Beh, anche perché la Russa dovrebbe ben sapere, essendo un politico molto navigato, che si è trovato sempre la sintesi e si è sempre stati insieme, lo dobbiamo solo a Silvio Berlusconi. Cioè, voglio dire, se è là è anche per merito, e soprattutto per merito di Berlusconi, la Russa, o no? Ma io credo che tutti noi, nel nostro migliore libro dei sogni, non tanto me perché non ho mai visto avuto ruoli da ministro, ma voglio dire, ma quando mai poteva pensare la Russa senza Berlusconi di fare il ministro della difesa? Quando mai tanti altri potevano pensare di quello che hanno fatto senza Silvio Berlusconi? Insomma. Anche Alfano che lo ha paragonato a Scalfari, come l'ha vista questa cosa? No, io l'ho detto pubblicamente, questa roba qua non mi è piaciuta. Però voglio dire, se l'ha fatto vuol dire che a lui piaceva, no? E Albertini, Albertini che dice, questo secondo me è incredibile, che strappa la tessera del PDL se il PDL va con Maroni? Beh, questo guarda, non è un sintomo di intelligenza politica, perché Albertini dovrebbe avere a cuore, come ce l'ho io, nella stessa identica maniera, di fare vincere il centrodestra e di governare con il la centrodestra Lega, con della la regione Lega. Lombardia. Con la Lega. E allora, siccome veniamo dalla Sicilia, dove per una guerra di bande poi il risultato che abbiamo perso, allora Albertini, che io ritengo una persona intelligente, dovrebbe anche saper fare un passo indietro, come lo dovrebbe fare Maroni, e trovare un terzo che vada bene a tutti, però, scusi, per tenere in piedi l'alleanza. Però, scusi, perché non mi interessa, ma io non sono un opportunista politico. Lei tra non Maroni mi interessa, e scusi, vincere la, soltanto per opportunismo, per la vittoria della regione Lombardia. Mi interessa la Lega come progetto politico, come politiche per la questione settentrionale. Benissimo. Allora, perché il nord ha bisogno di politiche. Allora le chiedo subito questo: tra Maroni e Albertini, lei chi preferisce? Io, come appartenente al Movimento Popolo delle Libertà, vorrei esprimere il candidato. Ho capito, ma siccome ormai si è arrivati a una scelta, lei preferisce, lo vede più adatto, Maroni a governare la Lombardia? Ma io, guardi, le dico onestamente che Maroni lo trovo una persona capace, ha fatto molto bene il ministro, e io, dovessi scegliere io, scelgo Maroni. E la Biancofiore fa più danni che altro? Con le sue affermazioni, con le sue tirate, con le sue... Ma viva Dio che c'è della passione, siamo in un mondo dove, ma ha detto che la... dove c'è tutto noi, ma ha detto che la gente dove va... sono tutti diventati democristiani, siccome, guarda, io ho una certezza, morire berlusconiana sì, ma democristiana mai. Questo non è male, però meglio morire... Berlusconiani che democristiani. Senta, ma lei lo capisce il grande Petreus, ex capo della CIA, insomma, per questa scappatella con... L'ha vista la moglie? Sì, l'ho vista la moglie. Che dice? Ma io voglio dire che questo dimostra che voi uomini siete così. E cosa, tira più un pelo di qualcosa che un carro di buoi. Siete un proprio pelo così. Di non voi. Cosa volete che vi dica io? E vabbè, però... È il vostro limite. Però scusi, ma di fronte a quella... Ce l'avete di fronte... sempre solo con uno. Ma di fronte... E poi si dimostra che siete tutti uguali. Ma di fronte a quella... uno. Adesso oggettivamente, lei l'ha vista le foto della signorina Broadwell, là come si chiama, e accanto quelle della moglie del signor Petreus, adesso voglio dire, no? Ma guarda che nella vita non è mica tutto, io non sono un maschio, ma trovo donne che non belle, io personalmente le trovo affascinanti. Anche guarda la moglie... la bellezza, no, ma certo, e la sessualità, la sensualità, non sono... ci sono donne bellissime che sembrano dei pali della luce, donne normali che sono tremendamente erotiche, quindi... Senta, ma quindi Berlusconi che c'entra? Petreus nostrano. Ma no, ma che c'entra Berlusconi? Cosa ha detto lì? Non ho sentito. Niente, che ha detto che Berlusconi è un Petreus nostrano, una stupidaggine, ha detto, che vogliamo fare ogni tanto. Parenzo, ma anche Petreus. Ma anche Petreus. Se guardassero nelle mutande di Parenzo cosa troverebbero? È questo. Una bella telecamerina, visto che qua siamo ormai tutta la vita il Grande Fratello intercettato. Le piacerebbe. Senta, le che c'è? Piacerebbe. Una bella telecamera sulle mutande, poi cruciale. Le piacerebbe, Le piacerebbe. Senta un attimo, ma da D'Alema cosa c'è? Mi dica una cosa in conclusione, che c'è da imparare da D'Alema. Lei ha reclutato quello che fu lo spin doctor di D'Alema, anche se poi con D'Alema in realtà non è più in contatto. Signor Rondolino, una cosa che c'è da imparare da D'Alema. E quindi io a parte che ho da imparare da tutti, anche ma da D'Alema cosa c'è da imparare? Non è che c'è da imparare da D'Alema. Rondolino lo trovo una persona assolutamente intelligente, vivace, come piacciono a me le persone, curiosa, e che crede in me, compie con me questa cosa e sono felice. Poi insomma D'Alema non è l'ultimo dei cretini, No? Ma insomma, i cretini ce ne sono tanti altri prima di... Cioè nella sinistra è una delle persone che lei stima di più? Guardi, D'Alema non mi piace la presunzione e l'arroganza, però voglio dire che D'Alema, anche lei è un po' presuntuosa e arrogante, ma giustamente in politica. Guarda, io non sono né presuntuosa né arrogante. No, ma l'arroganza è quella giusta, la cattiveria. Che cosa? Il coraggio di chi ci crede. Ma di D'Alema apprezza per esempio la cattiveria, l'antipatia che suscita, questa l'apprezza? Ma guardi, io le devo dire che tutti quelli che hanno carattere, già il fatto di avere carattere vuol dire anche lei. Dunque si rivede nell'antipatia, nella cattiveria di D'Alema, o no? Ma io vedo tanta cattiveria. Che hanno gli altri nei miei confronti, però le ripeto, ci sono tanti cretini. D'Alema non lo reputo un cretino. Well now a little mosquito there must be, well some reason for you that I just can't see. Well there is, well you're right son, you see God put me here just the same as he put you, so Allora, caro Parenzo, ascolta, ascolta questo. Scrive un signore che si chiama Paolo Barnard. Paolo Barnard, che ha un sito, è un giornalista barra professore, non so bene, non credo che sia professore universitario, ma conta poco. Uno che si dice esperto di economia, è apparso in qualche trasmissione televisiva, lavorava, credo, con la Gabanelli prima di entrare in una causa con l'azienda. Vabbè, insomma, questi dettagli ve li risparmio. Il signor Paolo Barnard scrive: il 12 novembre un tizio famoso, che sarei io, grazie, è famoso ma non è importante, un tizio famoso che conduce il programma La Zanzara su Radio 24 parla di me e di ciò che ho detto all'ultima parola di Rai 2. Naturalmente questo Kierkegaard via etere, si pronuncia bene Kierkegaard via etere, sì. Qui fa lo spiritoso, il signor Barnard. Omette il contenuto drammatico della tragedia di un 17enne che ha perso il padre suicidatosi per l'economicidio di Monti. Beh, questo lo dice lui che si è suicidato per l'economicidio di Monti. Non è che sia una verità assoluta. Non è una verità assoluta, caro Barnard. Lo dici tu che c'è un rapporto di causa-effetto tra quello che ha deciso Monti, tra quello che ha deciso Monti e il suicidio di... No? Di questo signore, lo dici tu? E che io avevo premesso la mia famosa frase: Monti, criminale, denunciami. E seguono sberleffi vari. Scusi, signor Barnard, ci perdoni tanto se ogni tanto ci permettiamo di scherzare e di ridere. Coadiuvati dai commenti di un signore che sembra avere il quoziente di intelligenza di un involtino di pollo, che saresti tu, caro involtino di pollo. Sì, involtino di pollo. Ma involtino di pollo è carino, però. Sì, non è male, effettivamente. Ok, poche ore dopo mi arriva questo da una faccia di bronzo da Oscar, che sarebbe il signor Riccardo Poli, che lavora con noi. Buongiorno, professor Barnard. Volevo contattarla per proporre un'intervista all'interno del programma serale di Radio 24 La Zanzara. Mi faccia sapere se posso chiamarlo oppure se lei mi può contattare al numero, eccetera, eccetera. Grazie. La mia risposta: non mi presto al circo dei freak. Dunque siamo Kierkegaard via etere, tizio famoso, involtino di pollo e poi anche freak. Sia cortese, non siamo tutti scemi. B. E poi si picca in questa lettera di essere uno che non vende la sua importanza per apparire fra le star. Sono certo che condividete. Adesso vi voglio fare sentire... siccome io sarei Barnard, il Kierkegaard via etere, io non sarò certamente un filosofo, su questo non c'è il minimo dubbio, e però, caro signor Barnard, lei è arrivato a parlare di nazismo, non mi ricordo che cosa, a proposito, risentiamo, vi prego, risentiamo, perché sono cose, non dico comiche, di più del al di là del comico. Questo uomo vi mente perché è un docente universitario di economia, è un monetarista e sa perfettamente che la catastrofe economica che sta inglobando l'Europa, distruggendo il sud Europa, è un progetto di 70 anni che nasce con l'economista francese François Perroux, un filo nazista francese che si inventò la moneta unica. Monti studia queste cose, le sa perfettamente. L'euro è stato disegnato per arrivare alla distruzione del sud Europa. Io non sarò Kierkegaard, e però un'altra perla l'abbiamo, un'altra perla? Andiamo con un'altra perla, su. Allora, io sono venuto qua in questo programma mesi fa a dire che Mario Monti è un criminale. L'ho detto per rispetto alla tua tragedia, Vincenzo, ma l'ho anche detto perché io spero e voglio che Mario Monti mi denunci, mi quereli, perché solo denunciandomi, querelandomi, io posso portare davanti a un tribunale italiano le prove del fatto che questo è un economicidio contro la patria. Allora sono davanti a questa telecamera, un network nazionale, lo ripeto, Mario Monti, lei è un criminale, mi deve denunciare. Io non credo, caro signor Barnard, detto con tutto rispetto, che il professor Monti, il primo ministro Monti, noi non siamo affatto clementi, anche se non abbiamo la sua profondità di pensiero, non abbiamo le sue conoscenze, non siamo affatto clementi di fronte ad alcune scelte del signor Monti, non credo che le farà questa cortesia, non le farà questa cortesia. L'involtino di pollo aggiunge solo questo. Tu ti immagini la scena del professor Monti riunito col suo governo? Sì, a un certo sì, punto arriva uno dei suoi segretari mentre lui sta varando provvedimenti importanti, bussa alla porta, Consiglio dei Ministri, chi è? Dice mondo elegantissimo, sono il suo assistente, scusi, c'è un'agenzia, c'è il professor Barnard, caro Monte, chi di grazia, Monte elegantissimo, chi di grazia, un certo signor Barnard, che sostiene che la deve denunciare, professor Barnard, non l'ho mai incontrato alla Bocconi o al gruppo Bilderberg, mi può dire qualcosa di più su questo signor Barnard, e fanno ascoltare, professor Monti, le stronzate dette da Barnard, gliele fanno proprio ascoltare, Monti non muove neanche un sopracciglio, semplicemente richina la testa sui suoi documenti e intimorito questa persona che lo ha interrotto si allontana e verrà licenziato dopo 40 secondi per averlo disturbato, capito? Questo è quello che succede, questo. Dopodiché arriva il professor Becchi che gli vuole sputare in faccia, sentiamo il professor Becchi. Esatto. Becchi, professor. Altro illuminare. Non me lo toccare. Lei esatto. Sputerebbe in faccia a Monti? Se lo avessi di fronte sì, a costo di andare in galera. Perché quella è veramente una... Lui, ma ancora di più Prodi, perché ce lo chiede l'Europa. Io quando vedo quella faccia lì, mi sono fatto, sai questi giochi che ci sono da tirare le freccette, vabbè. No? Con lui, con quella faccia, ce lo chiede l'Europa, capisci? E che si è fatto? Ogni tanto tira le freccette contro, esatto, contro non Prodi. Non la posso soffrire. Massimo da Piacenza, buonasera. Sì. Massimo, dica. Buonasera Crociani e buonasera grande parente. Allora no, volevo soltanto, sono un po' fuori tempo perché ho sentito ieri che avete fatto sentire questo sindaco di Salerno, adesso sì, ricordo, no? De Luca, sì, allora? Che sfotteva Bersani, insomma, lo chiamava Turtlane, insomma. Ma veramente non lo sfotteva per niente, perché diceva semplicemente che deve buttare il sigaro, che sì, mediaticamente non vale nulla, e però lo appoggia, dice che è l'unico in grado di guidare il paese, per cui non è che lo sfottesse troppo. Poi. No, lo sfotteva un po'. Vabbè, allora? No, volevo chiarire, soprattutto a beneficio anche del sindaco, magari se venisse... Ma l'abbiamo già detto, quella cosa dei tortellini? L'avete già detto, che però qua si chiamano Turtlane, non è vero che... Cioè, ma quello è di Salerno, che vuole che esatto, sappia? Esatto, è di Salerno, il signor De Luca. Cioè... Lo dico proprio per lui, così magari se viene a Piacenza... Vabbè, io lo segnaliamo, non si preoccupi. Grazie. Gennaro da Roma, buonasera. Comunque ti segnalo. De Luca, tra l'altro, in un tweet scrive che per andare a Napoli bisogna superare la dogana. Gennaro da Roma, dica. C'è un nuovo buonasera. Formigoni. Sì, per sì. Cruciani. Sì, dica. Grazie per l'ospitalità. Guardi, no, io chiamavo come l'ascoltatore di prima per l'intervento di ieri relativo alle manifestazioni che ci sono state a Roma. Lei faceva la domanda del perché gli organizzatori dei cortei non fanno nulla per evadere. No, perché fanno, soprattutto perché consentono che i violenti siano in testa al corteo, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, ci sono tante domande, ma non me ne frega niente. Oggi qualcuno scrive, leggo un'intervista di un ministro, il ministro Barca, un'intervista alla stampa. Queste proteste ingovernabili nascono dall'assenza dei partiti. Ma quando mai le proteste ingovernabili non nascono dall'assenza dei partiti? Nascono dalla presenza dei delinquenti, non dall'assenza dei partiti. Ma che c'entra l'assenza dei partiti? Fa tutti questi scenari. Ci sono un gruppo di delinquenti impuniti che sono presenti in ogni manifestazione e che rompono le balle alla gente e distruggono tutto. Punto. Questo è vero. Però la riflessione è molto profonda. Ma quale riflessione? Il ministro Barca. Vabbè, è ma vera, cioè i partiti che erano dei corpi intermedi. Ma senti, non me ne frega niente di queste spiegazioni tue. Gennaro da Roma, non me ne frega niente né dei corpi né delle spiegazioni sociologiche. Figuriamoci, sì, se in una manifestazione del genere vanno rintracciate delle motivazioni sociologiche. Qui ci sono un gruppo di delinquenti sì, che si infiltrano o sono presenti conniventi gli altri in ogni manifestazione per sfasciare tutto. Questo punto e basta, Gennaro. Perfetto, e fin qui siamo d'accordo. Il problema però nasce, senza sì, entrare nella sociologia spicciola, dal fatto che, come lei diceva giustamente ieri, in quelle circostanze è difficile identificare queste persone, così come è difficile dire sì, se il poliziotto ha fatto bene o male in quella circostanza. Cioè è un qualcosa... Vabbè. Allora? No, ecco, la domanda lei si è dato anche la risposta, senza volerlo, stesso ieri. Cioè gli eccessi vanno condannati. E vabbè, li condanniamo e condanniamo gli eccessi. Condanniamo gli eccessi. È difficile individuarli in quella situazione, così come è difficile... Senta, i poliziotti non vanno lì per picchiare la gente, poi ci saranno gli eccessi. Chi va a picchiare la gente per strada sono altri, non i poliziotti. Non è che i poliziotti vanno con l'intento di picchiare la gente. Ci sarà sicuramente anche qualche testa calda nella polizia che vuole fare qualche regolamento di conti, non c'è dubbio. Però la realtà è una, che lì in piazza ci va la gente per picchiare. Punto. Umberto dalla provincia di Milano. Buonasera Cruciani. Buonasera. Senta, no, io volevo fare una considerazione su quanto ha dichiarato la Santanchè. Sì. Lei ha fatto riferimento a Sallusti che va in galera da innocente. Ora, non mi pare che sia una considerazione corretta, nel senso che Sallusti è stato condannato. Sì. In conseguenza, cioè, voglio dire, perché questi politici devono sempre prendere parte di una parte senza, come dire, analizzare poi le realtà delle cose. Non si può criticare una sentenza, a meno che non si metta in discussione, voglio dire, tutto il sistema giuridico italiano. Ok, uno può considerare anche sballiata una sentenza, o può pensare, oggi Sallusti ha detto... Dice sbagliata, contesto la sentenza, perché se avesse letto l'articolo, avesse chiamato la famiglia coinvolta in quella porcheria di articolo, perché l'articolo era veramente la porcheria. Ma in realtà lui dice... In realtà lui dice che non ha... che l'articolo poi conteneva degli errori, ma in fin dei conti poi... Però dire che una famiglia uccide una persona, quando si perde una figlia, probabilmente hanno vissuto un bel dramma, quella povera famiglia lì. Va bene, grazie! Non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito. Ti ho invitato un grande personaggio questa sera, David. Ti ho invitato un grande personaggio. Prima voglio capire una cosa. Oddio. Perché il presidente Formigoni fotografa i topi nella stazione della metropolitana di Milano anziché fotografare la barca di Dacò sulla quale era ospite? Vabbè, ma ognuno fa quello che vuole. Questa è la domanda, anziché parlare dei topi. Senti, della stasera quando alzi la voce al telefono ti si sente malissimo. Non so perché, allora. Cerca di aggiustare questa cosa, che mi sono rotto le scatole. Allora, intanto, mi sono rotto le scatole, però. Il celeste, tra l'altro, ma sono un tecnico ha attribuito il formaglione a un tizio che si chiama Francesco Abate, 40.000 follower su Twitter, però in realtà c'è una combine, perché è il marito di una sua collaboratrice. È il marito di una sua collaboratrice, signor Abate. Formigoni, su, controlliamo bene le cose. Con noi un grande personaggio, Dario Fo, buonasera. Buonasera, buonasera. Come sta? Bene. Beh, la voce è squillante, voce molto squillante, signor Fo. Anche se c'è un tempo incerto e fa un po' freddo, va benissimo. Senta, ma ha visto quelle immagini della polizia, che delle manganellate sugli studenti? Che ne pensa? Si è comportata male la polizia? Ma, insomma, c'è sempre qualcuno che... dice che la risposta è in rapporto alla violenza subita e via dicendo. Sì. Però ogni tanto la polizia va giù pesante, perché io ho visto qualche immagine, insomma, faceva capire che era una specie di sfogo, di vendetta, di insomma, la polizia dovrebbe cercare di stare in un equilibrio più... Lei non esprimerebbe solidarietà nei confronti dei poliziotti feriti? Io chiedo, perché il ministro... Senz'altro. In quelle situazioni... No, la cosa terribile, orrenda, è che i poliziotti, anche loro sfruttati, con stipendi, con il guaio, con gli orari, con una vita difficile, eccetera, eccetera, si trovano costretti a battere su della gente che è nella loro stessa condizione. Beh, insomma. Cioè, la cosa incredibile, penso un poliziotto che picchia uno che è disoccupato, che ha a casa la moglie che cioè, lei è d'accordo con Grillo quando dice che i poliziotti dovrebbero unirsi agli studenti per protestare? Ma in certi momenti sì, ma perché ho parlato anche con dei poliziotti e c'è stato un poliziotto così, a mio avviso un bel cervello, che a un certo punto ha detto: e fra poco, quando questi non ci saranno più e saranno spariti, perché sono dei poveri proprio da mettersi da parte, non hanno più neanche la forza, chi picchieremo noi? Questo ha detto? Sì, a chi daremo le legnate noi? Parenzo, ti piace l'ospite? A noi stessi? Parenzo, ti piace l'ospite di stasera? Finalmente. Beh, finalmente un'amicizia, ho l'onore di avere un'amicizia e un rispetto profondo per il grande maestro Fo, quindi ti saluto, sono Parenzo e ti abbraccio fortissimo, Dario. Grazie. Ma che ne vuoi sempre a fare queste cose? Perché lo conosco, io sono cresciuto con le opere di Dario Fo. Ma che sei cresciuto con le opere? Ma che va a farla finita? Io sono cresciuto, sì, brutto ignorante che non sei altro. Io sono greve anche se. Io sono cresciuto con Mistero Buffo, sono cresciuto con La Resurrezione di Lazzaro, bellissima. Sono cresciuto con... Ma tu sei un uomo sei un uomo di cultura, io sono un uomo di popolo. No, Settimo Ruba un po' meno, che lui fece negli anni 70, aveva anticipato Tangentopoli e questa corruzione di questi ladri, hai capito? Vabbè. Senta, ma purtroppo riusciamo soltanto ad anticipare e poi non riusciamo a bloccarle. Sì. Senta, signor Fo, lei andrà a votare per le primarie del centro-sinistra? Ma certo. E per chi vota?

Cioè Grillo, ma presidente del Consiglio. Lui, no, ma lui non vuole assolutamente saperne. Ogni tanto io lo chiamo magister, oppure gli do dei titoli onorifici, e lui si incazza perché... Come lo chiama lei ogni tanto? Ma io lo chiamo Beppe. Sì, però che titoli gli dà? Nessun titolo, come lui non ne dà a me. Lui non mi chiama neanche maestro, tutti mi chiamano maestro e lui non mi chiama, mi dice Dario addirittura Ada. Scusi un attimo, però l'ipotesi che vada a guidare il paese, solo per pure ipotesi, sarebbe un disastro per l'Italia, no? No, non so, tutto dipende da che razza di forza si riesce a guadagnarsi e soprattutto impegnato com'è a studiare, a guardare, a verificare, a essere sicuro delle cose, anche che cosa riesce a tirar fuori. Ha un vantaggio, devo dire, che davanti a quella che è la situazione attuale, soprattutto alla condizione, il linguaggio, la forma dei politici che abbiamo davanti, tutto quello può succedere, l'ira di Dio, siamo fortunati ad avere Grillo. Fortunati. Capito, Parenzo, tu che lo critichi sempre dicendo che è un guru, dicendo che è come Scientology le sette. Senti il tuo maestro, senti quello che consideri il tuo maestro, il signor Fo. Io lo stimo moltissimo, su questo dissento, perché penso che i partiti siano importanti e la democrazia nei partiti sia fondamentale. Certo, è importante, ma fatemi capire quanti ne scartate. Ditemi un numero. Perché io quelli che incontro, che ho incontrato nella mia vita, ho incontrato della gente che insomma è meglio tirare giù la Claire, come si dice. E intanto Renzi è alla Leopolda e sta parlando, se lo ricorda il banchiere Davide Serra, quello delle Cayman, no? Quello della polemica delle Cayman, il signor Davide Serra. Sta parlando adesso insieme a Renzi, ha capito? Signor Fo? Ma vabbè. Che bello, proprio una accoppiata stupenda. Signor Serra è uno che fa i soldi con le... con la finanza, è mica un delitto fare i soldi con la finanza. Speriamo che non faccia alla maniera del dirigente massimo della Fiat. Ah, Marchionne, dice. Che tiene gli operai a uno che fa lavorare 10 ore consecutive al giorno senza riconoscergli neanche i ma dove? In Serbia, dove? In Serbia, dice lei, dove? Non mi pare un affamatore di gente il signor Marchionne, però. Non lo è? No, perché no. Vorrei vedere se lei fosse a lavorare 10 per fortuna ore al giorno consecutive. Per fortuna no, ma nemmeno lei nemmeno lei lavora 10 ore al giorno consecutive, però. Io? No, nemmeno lei va in fonderia a lavorare 10 ore al giorno consecutive. D'accordo, ma se ci andassi non andrei a dire, beh, poverino, non strozza la gente, direi... figlio di buona donna, pianzala di strozzarci. Addirittura uno che strozza la gente, un figlio di buona donna. Ma perché uno che fa 10 ore al giorno e poi dà delle paghe ma sono le paghe previste dalla legge in quei... persona, ma mi dicevo prima che l'altro era un pochettino di destra, ma lei dove sta? Beh, io sono abbastanza marchioniano, ho un busto di Marchionne. io sono anti-Marchionne. Lei lo sa, signor Fo, io a casa mi sono fatto fare un busto di Marchionne. Sai, perché sei uno psicopatico, sei. Un busto, un bel busto di Marchionne. Perché in bagno, dice lei? In bagno. Perché facilita, dice, no? Facilita. Aiuta. Senta, se lei fosse di fronte a Marchionne, cosa farebbe? Se ce l'avesse di fronte, cosa farebbe? Dicevo, direi, ma piantala di strozzare la gente. Uno schiaffo no, eh? No. Uno schiaffo no. Non ho il senso della violenza... Ah. Diciamo quella vocale fatta di braccia, lei a un certo punto si ritrova di fronte il signor Marchionne, proprio Dario Fo e Marchionne, uno di fronte all'altro, non le viene una botta da matto, no? Ma a parte che sarebbe quasi impossibile, ma che ne sa, come no, una situazione può succedere. A Milano si dice: se la mia mamma avesse i ruote sarebbe un tramvai, se mia madre avesse le ruote sarebbe un tram. Questo perché? Perché i sé davanti sono sempre vuoto di ogni discorso. Senta, logico. Un'ultima cosa. Ha ragione, però Marchionne ha fatto delle cose violente, perché licenziare, non assumere le persone in base alla tessera sindacale è una cosa violenta. Male. No, sta dicendo che Marchionne ha fatto delle cose violente, però le chiedo un'ultima cosa. Se lei considera Marchionne una sorta di personaggio che strozza gli operai... Beh, diciamo che è molto brutale. Insomma, è brutale, quasi da galera. No, ho detto brutale, non cominciamo. Beh, uno che vuole... le leggi lo difendono. La legge dice che uno può sfruttare tranquillamente un altro uomo e avere l'impunità. Quindi atteniamoci questa legge. Sono brutte leggi però, secondo lei? Beh, non sono simpatiche, soprattutto per chi le deve sopportare. L'abbraccio! Grazie. Stia bene. Non mi ha detto tra Grillo e Bersani. Te lo scrivo. No, leggo, è Grillo, poi. Lo dice. Grillo, sì, Grillo, no? lo dica. Grillo mi è più simpatico, va bene? Zanzare. Un po' la voce di Prosecco, per cortesia, grazie. Prosecco, che c'entra il Prosecco, Parenzo? Eh? Ah, sei a Prosecco questa sera, eh? Prosecchino ti fai, no. Eh? Il Prosecchino, eh? Il Prosecchino, l'amico degli operai, l'antimarchionne, il Prosecchino. E non c'è per caso il caviale? Eh? Non c'è l'accompagnamento? Dove sei? Al Sadler? Dove sei? Sei nato stupido, mi dispiace. Prosecchino, avete servito il Prosecchino a Parenzo? Fammi sentire la musica di questo piano bar, di questo posto per l'aperitivo, elegante, sicuramente un posto da ricchi. E d'altra parte l'amico degli operai, signor Parenzo, David Parenzo, vergognati. Allora, come si devono vergognare? Vergognare! Riportate dietro le olive. Portate le olive, sì, signori inservienti. Come si devono vergognare quei partiti che oggi vergogna, e lo ripeto, ripetilo con me, vergogna. Ma se non sai nemmeno di che sto parlando, scusa. Ma non lo so, mi fido, sei il direttorissimo, mi fido. Vabbè, la realtà è questa, i partiti che oggi chiedono di fare le elezioni tutte insieme, no? Le elezioni tutte insieme, cioè non bisogna sprecare soldi e ci vuole l'election day ad aprile, le politiche insieme a tutte le regionali. Maroni diceva le elezioni devono restare separate poco tempo fa, un anno e mezzo fa, il signor Maroni. Nel 2011 PDL e Lega, insieme ad altri partiti, erano contrari all'accorpamento tra amministrative e referendum. Erano contrari, se ne fottevano dei costi, se ne fottevano. Non credete a questi partiti che vi raccontano fandonie, vogliamo risparmiare. Non gliene frega assolutamente nulla. Hanno buttato per anni soldi dalla finestra e adesso vi dicono che bisogna risparmiare 100 milioni perché in questo momento i cittadini... Vergogna. Aspetta. Maria, provincia di Vicenza. Aspetta, buonasera padre, scusi, è la Zanzara, Radio 24. Volevo passare un secondo, padre, signor Cruciani. Lei è padre? Cosa vuole? No, volevo fare una piccola intervista. No, vai tu. Lei è padre? Sono padre, ma non so niente di Italia. No, perché lei è un sostenitore, so, di Renzi, padre. Io non conosco niente di queste cose. Grazie. Ma chi era, scusa? Era un parroco, un prete che passeggiava per Roma. Ma mi sembrava anche straniero, scusa. Sì, tedesco. Il famoso padre tedesco. Ma perché non il pastore, il famoso pastore tedesco? Perché non l'hai inchiodato? Ho visto questo prete avanzare e gli ho chiesto un commento su Renzi, ma non conosco niente. Magari non lo conosceva sul serio, che ne sai? Vabbè, adesso Maria. Sto camminando, non stavo prendendo nessun aperitivo perché. Sì, però stai. No, ma devi. Non, nessuna proiezione. Devi stare fermo, figlio mio. Fermo. Stiamo facendo la trasmissione. Non siamo ai tuoi servigi. Devo andare alla proiezione. Ma non me ne frega assolutamente nulla a me della proiezione. Abbi pazienza. E non gliene frega nulla anche alla gente che ci ascolta. Abbiamo ancora grandi ospiti, ascoltatori, battaglie, un sacco di roba. Fermati un attimo. Infatti, sto andando a piedi. Ah, Maria, dalla provincia di Vicenza. Stai zitto. Fammi sentire la signora Maria. Maria, buonasera. Buonasera dica, a lei. Dica. Volevo intervenire sull'entrée della trasmissione. L'entrée? Ma è successo 2 ore fa, che vuole dire, signora Maria? Se non posso dire, scusi. Ma lei può dire quello che vuole. È un'ora che aspetto. Lei può dire quello che vuole, lei ha il diritto di dire quello che le pare. Ok, per una volta tanto dice una volta, posso dire quello che voglio. Quello che vuole. Allora, benissimo, volevo mettere l'accento sulla sua... ironia sul signor Barnard. Sì, sì. se non sbaglio, il meraviglioso giornalista che si intrattiene al mattino alle 9, signor Giannino, sì, certo, come signor no. Giannino, che fa? Esatto, e lui contesta il nostro presidente Monti. Sì, lo contesta, diciamo, con argomenti leggermente diversi da quelli del signor Bernard. No, lo contesta con argomenti molto, molto appropriati. Sì, appropriati sicuramente, ma diversi da quelli del signor Bernard. Molto diversi, le posso assicurare. No, no, no. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Il signor Giannino, che è una persona Maria, molto equilibrata. Maria, le dico che gli argomenti che utilizza... Guardi, se Giannino lei sentisse parlare... dice delle cose molto, molto profonde. Vabbè, quello che c'entra... puntuali. Scusi, e Maria, forse è uno dei pochi giornalisti, diciamo, che la crema, ma sono d'accordo con lei, della trasmissione, non mi interrompa, ma che non la interrompo, la interrompo quando mi pare, non mi interrompa, ma che... No, no, ha detto che posso dire quello che ho capito, lo può dire, io voglio appropriarmi del mio spazio. Ma lei non si appropria di nulla, guarda, non si preoccupi, non si appropria di nulla. Lei, guardi, posso dirle una cosa? Mi dica. Che la crema della crema della testata giornalistica della trasmissione viene fatta al mattino. Benissimo, sono d'accordo con lei. Poi alla sera il palinsesto cambia, benissimo, è folle, è fuori di testa. Ma quello lo dica al direttore della radio, mandi una mail, una lettera. Dovrebbe ascoltare la trasmissione. Benissimo, guardi che l'ascolta. Sì, come no, fa piacere, perché con Giannino, da voce al popolo, ed è equilibrato. Lei sembra un fuori di testa. E vabbè, pazienza, lei ci sono... sembra, anzi, non è che sembra. Sono fuori di testa. È un fuori di testa. Guardi, ci sono le persone perché equilibrate come Giannino e ci sono i fuori di testa. Nella stessa testata radiofonica, al mattino si dice una cosa, la che sera noia. No, non è che mi annoio. Sì, io mi annoio, mi sto annoiando perché... No, beh, guardi, mi sto annoiando tremendamente. Lei prende in giro le persone normali, con una vita normale, con uno stipendio da 1.000 euro. Ma quando mai? Io non prendo in giro nessuno. Lei è un falso comunista. Falso lei comunista. È una persona che non sta dalla parte del popolo. Chiamatemi un attimo qualcuno, vai. Cosa ha detto? Chiamatemi qualcuno in soccorso. No, ma per me sempre, tutte le sere, quando lei trova delle persone che sono contrarie. Sì, ma contrarie a cosa? Cioè, contrarie al suo modo di pensare. Anche ieri sera dice: guardi che arrivano due persone vestite di bianco e la portano via. Ma chi crede di essere? Si è guardato allo specchio. Parenzo, o avrebbe fatto un'analisi psicologica della sua personalità, ma del suo modo di pensare. Si è guardato allo specchio. Ogni mattina mi guarda allo specchio. Lei è ributtante. Beh, insomma, nel modo di essere. Su questo. E nel fisico. Questo. Nel modo di essere, nel fisico. Nei concetti che esprime. Sì, sì. Lo faccio ridere. Eh beh, nei molto, moltissimo. Che esprime. E comunque parlo da voce adesso a arrivano, una migliaia di persone che la pensano come me. Arrivano. Arrivano. Speriamo che arrivino a prendere lei. Stia tranquilla. Perché io tanto di cappello al dottor Giannino. Ma che c'entra Giannino? Lei è esattamente l'opposto. Lo voglio dire a tutta l'Italia. Lo dico e tutta speriamo l'Italia. Che il direttore lo senta. Ma sì, lo sente. Non guarda, è non che ci sia solo l'audience che fa, com'è, diciamo, che si dice? Tenere in piedi l'audience, come vuole. No, ma giusto, tenere in piedi una trasmissione. Sì. Okay? Sì. Ci sono anche le persone. Quando è stato sostituito lei quest'estate, c'è una persona più equilibrata di lei. Ah, sicuro. Ma che la buttino fuori. Sicuro. Non vede che non... cioè, tutte le persone che telefonano sono contro di lei. Arriva, No, sì, arriva, sì. Arriva per lei, però. Per lei. No, veramente è in direzione Vicenza. Perché se non trova Parenzo. Un pubblico... Se non trova... Maria, sono Parenzo. Maria, sì, scusi, va bene, signora Parenzo. Maria. Aspetta che è rosso, cazzo. Maria. Il gatto e la volpe. Parenzo. Maria, no, le voglio solo dire una cosa, ma senza urlare, con grande pacatezza. Sì. Non si stupi, mi ascolti bene le mie parole, non può guardare il labiale perché ha la radio, ma ascolti le parole. Sì. Se vede arrivare due persone in abito bianco, con una macchina coperta e una luce sopra, non si stupisca. No, sono proprio per lei, cara. No, sono proprio per lei. Sono i vostri amici, carissimi, Parenzo e Cruciani. Sono i vostri amici. Non si deve stupire. E vostri amici, voi quando avete delle persone che dissentono da quello che dite o quello che proclamate, sono degne solo di camici bianchi. E basta. Ha finito? Perché? Ha finito, perché si sta annoiando. Ha finito il comizio? Tutta l'Italia, no, non è un comizio. No. È un'espressione. Un attimo solo, stia zitto un attimo. Pronto? Sì, cercavo il signor Abate. No, scusa, Ho sbagliato, eh? Sì, sì. Sicuro, sì, signor Abate, sì, Francesco sì. Abate. No, Abate non è Abate qua. Non è qui Abate, eh? No. Francesco Abate. No. Vabbè. Arrivederci. Va bene, grazie. Signora Maria, allora? Perché è emozionato nel sentirmi. Scusi? Adesso la saluto. Spero che il direttore mi ascolti. Sì, sì, la sta ascoltando. E abbia la compiacenza di dare più spazio a Giannino, che è una persona equilibrata. Sì. E tolga spazio a lei. Sì. Bene. Ha fatto il suo proclama? Prego? Ha fatto il suo proclama all'Italia intera? No. Io non è che faccio il mio programma. Proclama. No, il mio proclama, non è che faccio il mio proclama. E che ha fatto? Faccio un appello, più competente, faccio un appello, faccio. Dottor Cruciani, sì. Scenda dallo scagno, come diciamo qua in Veneto, sì. Scenda dallo scagno e si... Ci siamo quasi. Com'è? Sì, no, ci siamo quasi. Sì, ma mi fa ridere, guarda, mi mette allegria. Sì, ma ci siamo quasi, non si preoccupi. Sai, brava gente, guardi, quella che arriva. Venga nei pressi di Vicenza, vedrà come l'accolgono. Come mi accolgono. Di solito mi hanno sempre accolto bene. Aperte. Mi hanno sempre accolto bene, Maria. Aperte. Mi hanno sempre accolto bene. E che fanno? Mi picchiano? No, io non sto dicendo che la picchiano. Non sto dicendo che la picchiano, cosa vuol dire? Mettere in bocca delle parole di violenza che non ho visto. La abbandono e le do anche un grandissimo bacio sulla guancia. Paolo... ma anche sulla bocca se non è schifo. Beh, insomma, mi fa un po' schifo, può darsi. Paolo, no, da... Ma Paolo da Firenze. Pronto. Buonasera. Salve, intanto volevo salutare Parenzo perché ho fatto un viaggio in torpedone con lui e ha un mio quadro. Sono Paolo Schegge, lui lo sa tutto di questo. È un grande artista, certo. Ciao. Ciao Parenzo, come stai? Tutto bene? Ciao caro, bene, grazie, mi fa piacere sentirti. Vabbè, adesso bello. Che cos'è sta rimpatriata? I due del torpedone, ma siete matti, siete? Allora Paolo? Allora, è un artista. Intanto, vabbè, auguri. Intanto Cruciani deve correre meno e trombare di più perché stia calmo Paolo, guardi che isterico, vabbè, lasciamo perdere. È isterico Cruciani, isterico. Poi? Allora, poi volevo dire sì. Una cosina di Parenzino voleva dire. No, di Renzi. Che Renzi passa il tempo dentro alla roulotte a fare spot insieme a Cori. Sì. Ma adesso tra i due non corre buon sangue, pare. Questo ragazzo è della razza dei vari Veltroni, eccetera, cioè che non hanno fatto una sega niente, capito? Né per dire un mese il cameriere, per cioè esempio. Hanno fatto solo politica, secondo lei? Sì, hanno fatto solo politica. Beh, lui era nell'azienda del padre, no? Non ecco, era... sì, a fare niente anche lì. Ma no, a fare allora, niente, su, dai. C'ha una faccina a Kinder Buena, visto come è tutto liscina a 40 anni per più. Ecco, questo qui, se lo votano e va e diventa il premier, questo sì. Spacca l'Italia. Spacca l'Italia, ma quando mai? Persona, un attimo solo, Paolo, un attimo persona. Solo. Un attimo. Allora, Marina Berlusconi dice non mi candido, ci credete? Io sì, io ci credo. Tu ci credi, Parenzo? Beh sì, certo, sì, da pensare alle aziende, lei non è una sprovveduta, è una donna di azienda, non... Anch'io non ci credo. Dell'Utri per l'ennesima volta dice sono in Parlamento per legittima difesa e forse mi ricandido. Sentite questa cosa di Di Pietro però, Di Pietro che a proposito dell'Italia dei videogiochi, IDV, Italia dei videogiochi. Bello, carino. A proposito dei videogiochi, io le sale da gioco non le conosco, non sono manco che sono, no? Le slot machine, a proposito della vicenda Maruccio. Personalmente non sapevo neanche che esistevano come si chiama, sale slot machine, che non ho mai visto in vita mia. Non sapevo neanche che... Conoscevo questa persona, ma questo non conosceva nemmeno le slot machine. Io questo non ci credo, francamente. A meno devi sapere che sono le slot machine. Adesso un magistrato, uno che ha fatto la carriera che ha fatto in magistratura, insomma, che non conosce cosa sono le slot machine. Su, ma dai. Eccoci qui, 20:35 la Zanzara, 800 24 00 24, ultima mezz'ora, ma restate incollati, cari ascoltatori. Se siete in autostrada, prosegui tu, Parenzo. Se siete in qualche strada veloce, se siete in città, cosa dovete fare? Parenzo, ma vai al diavolo. Paolo da Firenze, allora, non stavi ascoltando come al solito, ma se io ti suggerisco una cosa, che succede, Paolo? Scusa, Parenzo, cosa stai facendo? Non mi far arrabbiare adesso, però, Cosa stai facendo? Ma non mi stai ascoltando? Ti stavo suggerendo una cosa da fare. C'è la radio, bisogna farla in due, hai capito o no? Ma ho capito tutto, sono qui per strada, dimmi, ti senti. Ma scusa, ma non è che. Scusami un attimo, però consentimi questa cosa qui. No, ma aspetta, stai fermo. Non è che tu mi dici scusami, sono per strada. Ma non è che te l'ha ordinato il dottore di andare per strada. Hai una trasmissione radiofonica che dura fino alle 21. Mi fai il santo piacere di restare fermo in un posto immobile, di non rompermi le scatole. Paolo da Firenze, su, dai. Ma quale inchiesta, dai? Quel prete, ad esempio. Guarda, è una cosa incredibile. Almeno ascolta quello che dico, no? Ogni tanto. Paolo da Firenze, su, Paolo. Sembrate Arbore e buon compagno, siete stupendi in queste cose. Allora, io volevo dire se Cruciani aveva letto Les Illusions Perdues di Balzac. No, ma guardi, io al massimo ho letto Topolino e Diabolik. No. Allora parlo a Parenzo. Una volta al servizio militare, un attimo solo Paolo, una volta al servizio militare ci fu una battuta straordinaria di una persona che conosco, di un mio compagno di classe che fece i tre giorni del servizio militare con me, il quale mi disse, mi hanno chiesto che cosa ho letto nella vita, che cosa ho letto, e lui rispose, guardi, l'unica cosa che ho letto, l'unico libro che ho a casa è Rombo de Tuono, non so di chi, di Gigi Riva, una cosa di questo tipo, meraviglioso. Vabbè, Paolo, allora? No, allora, in questo testo splendido parla appunto di un provinciale, di un giornalista per l'appunto, che abitando in provincia va a Parigi e è furbino, è intelligente e scala tutte l'aristocrazia fino ad arrivare a livelli alti, però poi esagera e cade e torna al paesello, a Rignano, dove tornerà Renzi e sarà sputtanato anche come sindaco, perché non la segue Firenze, è un presuntuosetto che non ha un'esperienza di vita, non ha sofferto, non ha visto niente, questo è un provincialotto di Rignano. Allora se lo votano siamo un popolo di deficienti. Vabbè, Paolo, adesso Bersani si sa chi è, capisce? Anche Renzi, lei di Renzi non sa nulla. Ma come Renzi, non sa nulla? Renzi è un bamboccione che hanno costruito come un robottino, fa le battutine, c'ha l'occhio obliquo, sembra un Gasparri giovane. Beh, adesso un Gasparri giovane. C'hanno l'occhio spento, l'occhio vitreo, fisso. Guardi bene qualche foto. No, ma ho visto. Non... Cioè, capisce anche poco. Lei è molto lombrosiano. Sì, no, ma lui è così. Lui no, non può permettersi di rovinare 50 anni di centro-sinistra, perché abbiamo tanti difetti, però ci sono persone valide come Bersani. Lei tifa per Bersani contro Renzi, su. No, ma è molto semplice, dai. Ma cosa tifo? Cioè, io sono di molto intelligente e c'ho un'esperienza di vita allucinante e tantissima cultura, e le posso dire che questo è un altro blef. Vabbè, è un altro blef. Va bene, grazie, esatto. Francesco da Milano, buonasera. Ecco, pronto. Vada Francesco. Buonasera, senta, volevo dire una cosa. Sì. Prima ho sentito la Santa che voleva mettere una telecamera nelle mutande di Parenzo, giusto? Ma era uno scherzo, su, dai, sia buono. Come era uno scherzo? La Santa che ha detto così, io l'ho sentito. Vabbè, allora? Io ne metterei due alla Santa Che, una in testa e una nelle sue mutande per vedere che reazione hanno. A che cosa? Reazione a che cosa? Allora, in testa sicuramente reazione zero, perché la Santa Che nelle sue mutande vorrei capire che tipo di segnale avremo, visto che secondo me Parenzo c'è un bellissimo segnale, su lei non so, volevo dire la mia. Ma lei è molto volgare, guardi, è molto molto volgare, sta dicendo delle cose gravissime. Dice delle cose inaudite. Detto quello che ha detto la Santa Che, eh? Lei dice delle cose gravissime, guardi, sta dicendo delle cose molto gravi, molto gravi. Sta dicendo delle cose molto molto gravi. Ho sentito la Santa Che in diretta io, Ho capito, ma lei sta dicendo delle cose molto gravi, molto molto, molto gravi. Altamente diffamatorie, guarda, altamente. È uno scherzo. Grazie, Paolo da Roma, buonasera, Paolo da Roma. Eccoci qua. Allora? Una cosa, una domanda volevo fare. Visto questo amore per il risparmio, no? Per quanto riguarda le elezioni, dico, però quando c'è stato da accorpare il referendum alle regionali, questo amore per il risparmio, cercando di far cadere il quorum, chiaramente, no? No, sono d'accordo con lei, l'abbiamo detto prima, Paolo. Si devono vergognare. No, ma lei fa bene, non è che può ascoltare tutta la trasmissione. Esatto, si devono vergognare, si devono vergognare quelli che adesso dicono che non si possono fare le elezioni insieme, da Alfano in giù, perché così si risparmia facendo le elezioni nello stesso giorno e si buttano dei soldi se uno dovesse fare le elezioni regionali in Lombardia, in Lazio e Molise a febbraio. È una vergogna, perché non ci hanno mai pensato a risparmiare i soldi, né quando erano al governo né per la data delle elezioni. Vergognate. Ma che pensano, che siamo tutti imbecilli? Cioè, pensano che siamo tutti dei gonzi che crediamo a queste minchiate? Ecco. Come fa a non vincere Grillo? Dopo queste cose, certo, è facile, non c'è dubbio. Vabbè, adesso non è solo per questo, però. Anche per questo, dai, stanno esagerando. Va bene. Su tutti i fronti, insomma. Va bene, grazie Paolo, grazie. Antonio da Crema, buonasera Antonio. Buonasera. Volevo parlare di Bar. La questione è che lui non è che è un attimo solo. Pronto? Silli? Buonasera. Cruciani, come sta? Abbastanza bene, grazie Cruciani. Esco da una lunga giornata di consiglio. Lo so, Giorgio Silli, che è assessore a Prato all'immigrazione, uno dei rottamatori, formattatori, chiamiamoli così, formattatori del PDL, sì. Grande sostenitore del sindaco di Pavia Alessandro Cattaneo, che peraltro è più giovane di lei, no Silli? A 2 anni meno di me, sì, io gli gestisco, come dire, la raccolta firme e la campagna un po' per il centro-nord Italia. Allora, ieri però non la chiamiamo per questo, magari un'altra volta la chiameremo, però il punto fondamentale è questo. Ha passato una notte d'inferno e viene continuamente minacciato per una frase che ha scritto ieri su Twitter. La frase è questa, la ripeto a tutti: vedo il TG1 e penso che la polizia e i manifestanti in certi casi gliene dà sempre troppo poche, giusto? Esatto, certo. Allora, lei adesso non faccia il democristiano, perché lei non è democristiano, cioè non faccia il moderatore. Ha detto questo. Io sono più democristiano di Cattaneo, il che è tutto dire, guardi. Però ci sono delle cose sulle quali non transigo, questa è una di quelle. Allora, lei conferma. Quindi non sono un missino, sono un democristiano. Lei conferma che in alcuni casi la polizia dovrebbe picchiare di più. Beh, esatto. Il problema qual è? Che è stata tagliata la frase e ha girato nel web senza, in alcuni casi. Vabbè, ma in che senso? Scusi, Silli, non faccia il paravento. Che vuol dire? No, non faccio il paravento, perché di fronte a delle scene da guerriglia urbana come ieri, di fronte a poliziotti con la testa spaccata e a città distrutte, io francamente credo che la polizia debba usare tutti i metodi, chiaramente legali, e la polizia lo può fare, per reprimere le frange estreme. Poi, deve essere più dura? No, deve usare qualsiasi mezzo per reprimere le frange estreme. Che significa qualsiasi mezzo, Silli? Qualsiasi mezzo è laddove sia necessario, anche mezzi coercitivi, anche le manette, anche il manganello e la polizia. E lei pensa, scusi un attimo, lei pensa che invece la polizia sia molto prudente, che sia molto, come dire, che si fermi un minuto prima? Io penso che la polizia, tranne alcuni casi sporadici eccezionali, si faccia quello che deve fare, e non ci sto a vedere tutte le volte una scena stomachevole di questo tipo dove l'opinione pubblica si schiera dalla parte di chi distrugge le città. Questo voglio essere molto. Ci sono dei valori che non sono negoziabili. No, d'accordo, ma lei pensa che la polizia oggi in Italia sia troppo frenata, troppo prudente, dovrebbe avere più mano libera? No, e allora perché dice che dovrebbe gliene dà sempre troppo poche, scusi? Beh, che discorso discorsi, sono modi di dire. Chiaramente in questo mio tweet io davo solidarietà totale. E vabbè, quella è scontata, sì. Non è tanto scontata, Cruciani, perché oggi ho visto fior fior di dichiarazioni veramente che facevano ribrezzo, che mettevano ancora una volta in dubbio l'operato della polizia, dello Stato. Il nostro è uno Stato di diritto. C'è la democrazia. Però io sono d'accordo con lei, si figuri, io molte volte ho detto anche stasera delle parole molto dure nei confronti di questo manipolo di delinquenti che ogni volta si aggregano a manifestazioni che sarebbero pacifiche, però me la sono presa anche con gli organizzatori e con chi sopporta queste cose senza fare nulla, senza dire nulla, con i conniventi, esatto, con i conniventi, esatto, di queste manifestazioni. Io sono stato molto duro, però lei non si può tirare indietro quando dice che gliene dà sempre troppo poche, intende che effettivamente la polizia potrebbe picchiare più duro, potrebbe usare metodi più forti. Potrebbe usare metodi più forti, probabilmente, non so, sarebbe l'ora di utilizzare anche dei metodi un po' più tosti. Per esempio? Ci sono molte persone, ma per esempio anche cercare di individuare queste frange e veramente proibire di manifestare a persone. Permettere al 99% delle persone di manifestare in pace, perché la nostra Costituzione tutela queste libertà ed è giusto che questo avvenga. Però beh, questo fa parte dell'opera di prevenzione. Cruciani, io sono un democristiano, d'accordo? Ma i delinquenti devono stare in galera. Cioè gli equilibrismi politici si fanno su altri argomenti. Questi sono argomenti dove bisogna avere le idee chiare. Sì, d'accordo, ma in piazza io sono d'accordo con lei che se uno tira un sasso da qualche parte deve essere preso e sbattuto in galera. Sono d'accordo con lei, però in piazza, secondo lei, in piazza, sì, secondo lei la polizia ha degli ordini insomma, un po' troppo prudenti? Cioè bisognerebbe dare degli ordini di essere più duri con delle cariche, con delle cose, questo vuole intendere? Cruciani, io, come dire, non sono un tecnico, non mi intendo però, di polizia. Io politicamente dall'esterno vedo che l'ordine è gestito come deve essere gestito, che poi ci siano degli incidenti che derivano forse anche da un sistema legislativo un po' troppo particolare, cioè, un po' troppo garantista anche nei confronti di balordi che prendono a sprangate un poliziotto. Mi sembra abbastanza chiaro, no? Cioè è un sistema che è garantista, che garantisce la persona nella nostra Repubblica, e questo dico... Sì, ma guarda che se qualcuno vede uno prendere a sprangare un poliziotto viene arrestato all'istante, eh? Ma vede, questo è un paese dove purtroppo a qualcuno che ruba 10 milioni di euro gli viene detto bravo, e magari chi si dimentica di versare 500 euro di IVA deve... Vabbè, questo che c'entra adesso? Che c'entra? Questo è un paese dove viene, come dire, vessato l'individuo, e poi magari chi mette sotto in macchina una ragazzina, vabbè, da ubriaco... Un attimo solo, Silly, che devo mandare il traffico, poi mi dice quali mail e quali messaggi ha ricevuto di minacce da ieri per questo tweet che ha fatto, che io non considero affatto improvvido, perché la prima reazione è quella di dire effettivamente in qualche momento ci vorrebbe maggiore durezza. Parenzo, lo so che non sei d'accordo su questo, vero? Ma certo che no. Devo dire la verità che Renzi invece ha dimostrato di avere due palle così, secondo me, invitando alla kermesse di questa sera alla Leopolda, dove ha già parlato, il finanziere Serra, perché dopo le polemiche... No, ha avuto due palle così, secondo me, perché dopo tutte le polemiche che ci sono state... Dopo tutte le polemiche che ci sono state su questo finanziere, le Cayman, delle boiate che sono state scritte e dette sul ruolo di questo finanziere, ma soprattutto sui soldi, sulle Cayman, sull'evasione fiscale, eccetera, eccetera, ha avuto due palle così, te lo dico io, due palle così. Ma è ovvio che ci sarebbe andato, scusami, è un suo amico, ha partecipato alle sue iniziative, aveva già spiegato questa vicenda delle Cayman, ma perché non avrebbe... Ma qual è il gesto eroico? Ma non ho detto eroico, ma che eroico? Ma perché vedi gesti... Vabbè, allora, oggi sono incazzato nero. Ma non hai capito, non hai capito, ma non c'è problema, non c'è problema, è normale, è normale. Fammi sentire Aldo Busi. Aldo Busi, quelli del PD sono degli... Quelli del PD sono... Come mai ha così tanto successo, secondo lei? È la veemenza, è la veemenza, perché se lei guarda, abbiamo visto questi cinque rappresentanti del PD, la mia mamma li avrebbe definiti degli smorza uccello. No? Grillo è veemente, capito, è lì con questa sua furia, sembra un medusone, i capelli, ma nessuno ascolta quello che dice. Poi contesta Vendola quando sceglie il Cardinal Martini per il suo Pantheon, il Pantheon. Come si fa a votare per il Cardinal, poi Vendola, il Cardinal Martini? Ma di la verità, di che ti ispiri ad Aldo Busi, no? Cioè, ma che ne sa lei? Che ma almeno glielo auguro, no? Non si ispira a me, perché altrimenti userebbe avrebbe un altro tipo di eloquio, un po' più chic, un po' più raffinato, nel senso più colloquiale, non così ricercato. Trova che sia troppo ricercato. È ricercato e non è letterario, senza essere estetico. Eccoci, 800 24 00 24, siamo con il mitico Silli, assessore al comune di Prato, PDL, ma formattatore, il quale con un tweet se la passa brutta in queste ore. Che è successo, Silli? Beh, ci sono state un po' di, come dire, risposte, sono qualche centinaio di commenti su Facebook. Si sente in pericolo, privato, no? Si sente in pericolo. Eccetera. Beh, certamente non fa mai piacere. Cioè, tipo, la cosa più brutta qual è stata? Beh, ti stiamo venendo a cercare, stai attento, veniamo, minacce di morte, minacce alla famiglia, che non ho, tra l'altro, non ho né moglie, anzi la mia fidanzata è romana e da Roma mi sta chiamando dicendo: ma lo vedi cosa ti scrivono? Beh, io credo che in un paese libero si possa dire quello. Non dia troppe informazioni su dove è la sua fidanzata. Beh, insomma, Roma diventa un po' problematica. Beh, però, hai visto mai, tutto è possibile. Ecco, francamente fa male... Vabbè, però lei me lo dice. Che c'è ancora un nodo irrisolto, che è quello che non si può parlare di polizia e di manifestazioni liberamente in questo paese. Scusi, lei fosse stato un poliziotto in quei casi, avrebbe picchiato più duro nei confronti di qualche manifestante? Beh, sicuramente avrei fatto il mio dovere. Se vedo qualcuno che spacca il casco a un mio collega, beh, direi proprio di sì. E cosa avrebbe fatto? Ora, io capisco che lei mi voglia far dire qualcosa di eclatante. Di eclatante. Come hanno fatto, insomma? Fatto il loro dovere oppure sono frenati da qualcuno? Hanno troppe restrizioni, hanno ordini troppo limitanti. Questo voglio dire. Io l'ho detto. Credo che se ci sono dei freni, non sono certamente freni che vengono dall'alto. Ma è un po' il nostro sistema che è eccessivamente, come dire, un sistema che quasi tende a frenare la polizia, perché troppo spesso è stata messa alla berlina. Appunto, polizia troppo frenata dall'alto, si può dire. Per aver fatto il suo dovere, dalla legge sostanzialmente, che io rispetto, per l'amor di Dio. Parenzo, dimmi. Ma voglio dirti una cosa con grande affetto. Se sei un assessore e scrivi delle minchiate su Twitter... È chiaro che poi, con la polemica calda, con i ragazzi che hanno sbagliato, ma comunque feriti, e con poliziotti feriti. Alcuni ragazzi feriti, perché anche quelli ci sono, ci sono bande di criminali, poliziotti feriti e ragazzi feriti. Si è pentito di aver scritto quella cosa? Si è pentito di aver scritto quel tweet? No. Ma no, non mi sono pentito, perché c'era scritto chiaramente che mi rivolgevo ad alcuni casi e sono le frange estreme. Ho capito, quando uno scrive delle cose... Cruciani, perdonami, voglio dire a Parenzo una cosa, cioè io sono un assessore, me ha solo la responsabilità, io dipendo dal voto dei miei elettori, cioè non sono in Parlamento nominato, io raccolgo le preferenze, se ho fatto una minchiata gli elettori, come dire, lo decideranno e non mi voteranno. Io mi assumo le responsabilità di quello. Vabbè, quando uno scrive gliene dà sempre troppo poche, si intende che qualche volta dovrebbe dargliene di più. E lei l'ha detto anche stasera, Silli. Vabbè, comunque la devo lasciare. Grazie. Grazie. A presto. A domani 18:30 la Zanzara. Cruciani deve correre meno e trombare di più. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sia lodato Gesù Cristo, sempre. Radio 24. La passione. Si sente.